Tu ci vedi una bocca di rosa sul palco di X Factor. Tu ci vedi Battisti con la tutina di amici. Tu ci vedi Nevermind ad aprire live. Tu ci vedi Sex Pistols fare cover dei Dragons. Tu ci vedi il principe giudicato da Fedez o Agnelli che critica la PFM. Tu ci vedi. Tu ci vedi una vita come quelli di. Tu ci vedi una vita da commerciale. Tu ci vedi una vita da pubblicità o pubblicità di una vita. Tu ci vedi artisti per caso. Tu ci vedi a stare agli ordini. Tu ci vedi a basare la nostra arte su quella di altri. Tu ci credi che tutto questo ci fa credere? Dacci un voto, lascia un vuoto. Per sorridere non serve un sì, ma sì serve. Per i perdenti, insoddisfatti, da chi come chi crede in un sogno. Ma poi sta sempre lì, descrive i sogni piuttosto che viverli, come Mil. E poi piange per un no, basta un secondo. Giorno, dimmi sì o dimmi no, dammi uno, dammi dieci, dimmi sì o dimmi no, dimmi sì o dimmi no, dammi uno, dammi dieci. E poi il problema vero della musica in Italia è che questi talent hanno suscitato questa corsa al successo. E guarda ora cosa è successo. Ogni volta che un professore ci mette un voto che non sentiamo nostro, ci sentiamo noi il problema. Allo stesso modo in cui il 90% delle persone che vanno ai talent lasciano la musica subito dopo. La verità è che nessuno ci potrà mai dire di no alla nostra anima o dare 5 alla nostra persona. Dimmi sì o dimmi no. Dammi 10.